stasera non hai dato qua la palla, ma posso capitare la pinta? No, è la giusta, non la pezzi. Ho fatto questo. Che passaggiare l'ha fatto? Ma che Ты что, блядь, ты что, блядь, ты что, Salabou!